Sura 79. Annasiat. Le strappanti violente. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per gli strappanti violenti, per i correnti veloci, per i nuotanti leggeri, per i sopravanzanti con foga, per sistemare ogni cosa. Il giorno in cui risuonerà il risonante, al quale seguirà il successivo, in quel giorno tremeranno i cuori e saranno abbassati gli sguardi. Dicono: saremo ricondotti sulla terra quando già saremo ossa marcite? Dicono: sarebbe questo un disastroso ritorno. Ci sarà un solo grido ed eccoli risvegliati sulla superficie della terra. Non ti giunse, o Muhammad, la storia di Mosè? Quando lo chiamò il suo Signore nella valle santa di Tua. Va da Faraone, in vero è divenuto un ribelle, e digli: sei disposto a purificarti? Sicché io ti guidi verso il tuo Signore e tu lo tema? Gli mostrò poi il segno più grande, ma quello tacciò di menzogna e disobbedì. Poi volse le spalle e si distolse. Convocò i notabili e proclamò: sono io il vostro Signore, l'Altissimo. Lo colpì Allah con il castigo nell'altra vita e in questa. In ciò vi è motivo di riflessione per chi è timorato di Allah. Sareste voi più difficili da creare o il cielo che egli ha edificato? Ne ha innalzato la volta e le ha dato perfetta armonia, ha fatto oscura la sua notte e ha fatto brillare il chiarore del suo giorno. Dopo di ciò ha esteso la terra, ne ha tratto l'acqua e i pascoli, e le montagne le ha ancorate, sì che ne godeste voi e il vostro bestiame. Poi, quando verrà il grande cataclisma, il giorno in cui l'uomo ricorderà in cosa si è impegnato, e apparirà la fornace per chi potrà vederla, colui che si sarà ribellato e avrà preferito la vita terrena avrà in vero la fornace per rifugio. E colui che avrà paventato di comparire davanti al suo Signore e avrà preservato l'animo suo dalle passioni, avrà in vero il giardino per rifugio. Ti interpellano a proposito dell'ora. Quando giungerà? Che scienza ne hai per informarli? Al tuo Signore è il termine. Tu non sei che un ammonitore per coloro che la paventano. Il giorno in cui la vedranno sarà come se fossero rimasti sulla terra una sera o un mattino.